versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori Radio 24, 16, 9 primi in questo secondo, un pochino più tardi cominciamo. Grazie per l'ascolto in diretta o in podcast. Trasmissione dedicata all'avvenimento del giorno, almeno per chi segue le vicende bancarie, economiche e finanziarie italiane, perché, come vi avevamo anticipato già questa mattina, la giornata si incentra sull'audizione che era prevista, è avvenuta stamattina con un lungo seguito poi di risposte alle domande che gli venivano fatte dopo la relazione, l'audizione che ha svolto, l'audizione del governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco alla commissione di inchiesta parlamentare sulle vicende bancarie. E anche quest'oggi, come la scorsa settimana, abbiamo scelto un interlocutore obbligato, nel mio modestissimo giudizio, cioè il professor Erzegovesi, che la scorsa settimana ha avuto un grande successo sui social per l'ora che abbiamo dedicato a quello che avevamo imparato fino a quel momento dalla commissione, e che anche oggi ha seguito puntualmente l'audizione del governatore. Vi dico subito, prima di iniziare a far parlare lui, in sintesi estrema alcune delle cose più emerse. Soprattutto immagino che voi siate incuriositi della parte che riguarda la politica, cioè Renzi, Boschi e così via, anche se io ribadisco quello che abbiamo detto nella trasmissione della scorsa settimana. Con tutto il rispetto per le polemiche della politica, per avvicinarsi alla campagna elettorale e così via, e nel rispetto legittima opinione che ciascuno di voi può avere sugli incontri e le volte in cui con diversi interlocutori il presidente della Consob, Panetta della Banca d'Italia e così via, Mariana Boschi si è interessata di Etruria, e oggi vedremo che cosa ha detto Visco anche di Renzi. Pur tuttavia capisco tutto il rilievo a questa faccenda, ma il problema è quello complessivo più generale, a dire la verità. Delle opinioni date oggi dalla Banca d'Italia, come Vegas le ha date a nome della Consob, su che cosa è avvenuto in tutti gli anni che noi abbiamo alle spalle. Comunque, sintesi estrema della parte che riguarda la politica. Il governatore Visco ha detto che l'ex presidente del Consiglio Renzi nel 2014 chiese informazioni sull'ipotesi di aggregazione tra Banca Etruria e Popolare di Vicenza, e io non risposi, ha detto il governatore Visco alla commissione parlamentare d'inchiesta. Poi ha continuato dicendo: in un altro incontro, a richiesta di informazioni su banche in difficoltà, io risposi a Renzi che di banche in difficoltà io parlo solo con il ministro Padoan. Lui la domanda la fece e io non risposi, ha aggiunto il governatore. Mentre il governatore poi ha anche detto che l'allora ministro Mariana Boschi, nei due incontri con il vice direttore generale della Banca d'Italia Fabio Panetta, non fece una richiesta particolare di interventi su Etruria e espresse le sue preoccupazioni per Etruria, ma ha detto Visco testualmente nessuna pressione, spiegando letteralmente: ci fu una richiesta legittima di interesse sulla questione per le ripercussioni sul territorio della crisi di Etruria, e Panetta riferì a me, sta parlando il governatore della Banca d'Italia e al direttore generale Rossi, dei brevi colloqui nei quali non ci fu richiesta di interventi e non si parlò di questioni di vigilanza. La Boschi, ha continuato il governatore, non effettuò alcune sollecitazioni di alcuna natura su Etruria, né chiese informazioni riservate, e sottolineò la stima per la Banca d'Italia anche se l'azione di quest'ultima avrebbe comportato sofferenze per la sua famiglia. E il governatore poi, rispondendo a una domanda, ha ancora una volta ribadito che ha parlato solo con il ministro dell'economia Padoan delle questioni della vigilanza bancaria, in quanto secondo la legge il ministro è presidente del CICR, cioè del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio. Dopodiché vado a volo d'uccello, perché ripercorreremo insomma i maggiori punti con il professor Erzegovesi. Ha ricapitolato i rapporti dal 2011 con il Presidente del Consiglio, dicendo di non aver avuto mai screzi. Ha detto: differenze di valutazioni ci sono state, screzi no, ampia condivisione. a volte ci sono state valutazioni diverse, ha detto, solo con Renzi, non solo con Renzi, scusatemi, su come affrontare certe situazioni. E da questo punto di vista poi ha toccato argomenti, ha ribadito la tesi ufficiale della Banca d'Italia: il problema bancario è nato solo per la profondità e l'intensità della crisi, ha respinto su tutta la linea che questo si debba a una tardiva azione di vigilanza, non ha toccato il punto che più degli aumenti di capitale avvengono da quando poi scatta la vigilanza della BCE. Ha volato alto, per così dire, nei problemi emersi in maniera molto più puntuta nell'intervento del presidente della Consob sui rapporti dello scambio di documenti tra i due, che hanno rivelato un problema, almeno a giudizio della Consob, nello scambio di documenti, perché ha detto no, la collaborazione con la Consob è stata leale ed è in linea con il protocollo del 2012. Sì, può essere che i documenti siano formulati in maniera non coincidente con i diversi stili delle istituzioni, però insomma, ha negato l'esistenza di un problema di scambio di informazioni. E, ha negato che Banca d'Italia abbia mai detto che il sistema bancario era solido. Su questo io c'ho una riserva, perché non ce lo siamo inventati noi che queste fossero le dichiarazioni di membri del direttorio, di fonti ufficiali della Banca d'Italia. Ha negato che ci siano state pressioni per la Popolare di Vicenza e ha informato che esiste il protocollo delle telefonate con Zonin come con tutti i banchieri, e quindi ha ribadito questo. Anche qui i giornali italiani si sono inventati che esistevano una preferenza perché Etruria fosse acquisita dalla Vicenza, secondo la fonte ufficiale, cioè la banca del governatore. Sì, cioè lui ha parlato semplicemente di una disponibilità di cui aveva preso l'atto la Banca d'Italia da parte della Vicenza. Peccato che i giornalisti di tutte le testate scrivessero perché avessero delle fonti che dicevano che invece era caldeggiata. Ma questa è, io sto a quello che ha detto il governatore oggi. Il governatore oggi ha parlato di una Banca d'Italia che si limitava ad aver recepito un interesse da Vicenza, testuali parole, per Banca Etruria. Quanto poi ai funzionari e dirigenti della Banca d'Italia assunti nelle banche, ha detto no, veramente in 120 anni non abbiamo mai avuto un ispettore corrotto, e dal 2015 abbiamo rafforzato la misura per cui chi ha svolto funzioni di vigilanza o comunque diretto contatto con gli intermediari bancari per 2 anni non può collaborare e tantomeno essere assunto da loro. Però era avvenuto prima del 2015 il fenomeno dei dirigenti Banca d'Italia che vanno nelle banche nel tentativo di una, chiamiamola così, cattura del regolatore, quantomeno di una captatio benevolenze da parte del regolatore, è avvenuto in moltissime banche italiane ed è avvenuto puntualmente nelle due venete e non solo nelle due venete. Allora io mi fermo solo a questo per il momento, perché immaginavo e immagino che fosse la parte politica quella che innanzitutto vi interessava, se non avete potuto ascoltare la lunga audizione con moltissime domande che sono state rivolte al governatore. La cifra, questo è un mio giudizio personale, è di un governatore che si è tenuto, a differenza del presidente della Consob, su uno stile istituzionale molto più composto, per così dire. Ha riferito delle richieste di Renzi e ha detto, ci ha rivelato che non gli ha risposto, ha detto parlo solo con Padoan in due occasioni, esclude che Mariana Boschi nei due incontri con il vice direttore generale abbia né esercitato pressioni né chiesto cose che non aveva diritto di chiedere, e per il resto respinge su tutta la linea responsabilità di sottovalutazione da parte della vigilanza. In particolare, dopo aver ripercorso nella sua lunga audizione l'opposizione di cui all'epoca non abbiamo saputo nulla, l'abbiamo appresa solo alla fine del 2015, della Banca d'Italia su cose essenziali della direttiva BRRD, che poi entra in vigore tardivamente recepita praticamente all'ultimo secondo, alla fine del 2015 sotto il governo Renzi, oltre a questa ricostruzione è volato un po' alto, secondo me, dicendo che gli interventi sono stati effettuati in Italia per ciascuna banca in maniera diversa, le quattro risolte rispetto a MPS, è volato un pochino alto su un punto fondamentale, e cioè quanto su MPS, come abbiamo visto la scorsa settimana, la valutazione della stabilità da preservare del sistema man mano che si dipanava la vicenda di MPS dal 2008 in avanti, e rispetto al punto più delicato, cioè il fatto che la spalmatura delle perdite, per così dire, avveniva con strumenti finanziari che non venivano contabilizzati anno per anno nel conto economico, ma solo messi nella parte patrimoniale come se fosse un'attività di trading, e così questo è volato altissimo, e quindi possiamo immaginare che, non essendo entrato nel dettaglio di una delle vicende più delicate di tutte, quella che riguarda la lunga catena temporale di decozione di MPS con un ostacolo alla vigilanza sui documenti, dice Banca d'Italia, ma che poi abbiamo appreso invece essere noto alla Banca d'Italia, cioè la natura precisa di quei derivati con cui avveniva artificiosamente elusa la piena trasparenza sulle perdite da affrontare. E su questo possiamo immaginare, ma io non lo so, non sono un commissario, non ho potuto fare domande precise, che volasse così alto stamattina il governatore della Banca d'Italia, perché inevitabilmente la vicenda di quegli anni di MPS ha a che vedere con la vigilanza della Banca d'Italia, sì, ma allora il governatore era Mario Draghi e non Ignazio Visco. Però io mi fermo qua perché già troppo ho detto. Professore Arzugovesi, grazie di essere con noi. Buonasera Oscar, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, ripercorriamo un pochino l'audizione, però prima ci tenevo un giudizio da parte sua, generale. Che impressione ha avuto? Lei ha fatto, chi va sull'account del professor Arzugovesi troverà in dettaglio che seguiva l'evoluzione sia della lettura della relazione che trovate sulla la relazione dell'audizione del governatore, lo trovate sul sito della Banca d'Italia, che poi le domande più importanti che venivano fatte. Quindi basta andare sul Twitter del professore e trovate il tutto dipanato. Ancora una volta grazie per questo mestiere di informazione che fa il professor Arzugovesi. Ma che impressione ha avuto generalmente? Allora, sono appunti raccolti alla mia maniera, le cose che mi colpiscono. Secondo me ho notato un cambiamento di tono nell'audizione di Visco. Distinguerei la presentazione della relazione scritta, che comunque è stata arricchita da tante aggiunte a braccio, e poi dopo il momento delle domande. Io avevo in un tweet auspicato empatia. Un'empatia, ecco. Per non usare un termine più impegnativo, e da questo punto di vista ho notato, basta vedere la chiusa della diciamo verso scritta, chi però? L'empatia verso? L'empatia, alla fine dice, le perdite sopportate dai risparmiatori nel caso in cui non è stato possibile risolvere altrimenti le crisi sono state diffuse e dolorose. Verso i risparmiatori truffati, come si dice, quelli che per questa fase, questo momento di, diciamo, incertezza, quando dal 2013 si è visto uno scenario di crisi da affrontare in un quadro normativo che stava cambiando, e si è dovuto appunto gestire una serie di situazioni con strumenti inediti, e ci sono state anche questa missione molto onesta della diversità delle soluzioni nei vari casi e della diversità dei risultati, perché questa direi che è una ammissione anche di conseguenze appunto dolorose, perché alcuni hanno perso più di altri per dei meccanismi che hanno anche un aspetto di casualità, cioè di quello che volta a volta nelle circostanze la normativa, le opzioni disponibili, le scelte che si prendevano consentivano di fare. Quindi diciamo che fino a questo momento, ecco, perché la sua richiesta di empatia verso i risparmiatori che hanno perso deriva dal fatto che fino a questo momento, io condivido questa sua impressione, la Banca d'Italia in questi anni è sembrata non pronunciava parole all'altezza dei decine di miliardi di euro complessivamente tra azioni e obbligazioni che sono state interessate da poi dalle risoluzioni che sono avvenute. Sì, io la leggo così, ed è anche questo un concetto che è stato sottolineato. Da quando si è avviata la vigilanza unica e soprattutto il sistema di gestione delle crisi e delle risoluzioni, l'imperativo è i costi delle crisi ricadono sugli investitori, sì, nelle banche, salvaguardando soltanto i depositi assicurati fino a 100.000 euro. E questo per un po', anche nel dibattito scientifico, era una specie di postulato di Euclide, cioè se lo è, siamo in una nuova geometria nella quale il costo delle crisi lo pagano gli investitori. Benissimo, fino a che alcuni investitori in carne ed ossa si sono ritrovati a perdere gli 80, i 120, i 25.000 risparmi faticosamente accumulati. E allora la cosa è cambiata, ma ci è voluto del tempo, perché dalla nota di cronaca tragica del pensionato che si toglie la vita o dei rappresentanti che si radunano fuori da Via Nazionale o fuori dalla sede di Banca Etruria a portare dentro questo dramma personale nella lettura della dinamica della crisi, ci è voluta qualche settimana per capire che le due cose dovevano essere tenute insieme, cioè non bastava questa specie di giustificazione superiore, che adesso le regole sono cambiate per dire beh, è andata così, consolatevi, poteva andare peggio. Soprattutto io continuo a pensare che dal 2013 in avanti, perché il processo di definizione della BRRD, che noi recepiamo tardi, entrerà in vigore poi dall'inizio del 2016, però è del 2013, io continuo a pensare che dal 2013 in avanti, una volta che le obiezioni che noi non conoscevamo all'epoca e poi abbiamo imparato a conoscere nel dettaglio da dopo il 2015, avanzate dalla Banca d'Italia BRD, erano state respinte, cioè obiezioni, cari ascoltatori, che ancora una volta il governatore oggi ricordato, in relazione al fatto che Banca d'Italia aveva chiesto che si applicassero per esempio alle obbligazioni subordinate solo di emissione successiva e non allo stock di quelle esistenti, solo a quella successiva dall'entrata in vigore, che si pensasse poi a una data di entrata in vigore della direttiva comunque ritardata nel tempo. Una volta respinte queste, secondo me dal 2013 in avanti, quantomeno dal secondo semestre 2013 in avanti, l'azione dei regolatori italiani sulle subordinate che sono state emesse anche dopo da parte di banche che poi sono finite all'area doveva essere diversa, ma questa resta un'opinione mia, perché invece di continuare a vendere al retail bisognava intervenire dicendo no, le vendete solo agli investitori istituzionali. Questa rimane un'opinione mia, non so come la pensi lei, professore. Posso dire una cosa su questo, non vorrei che suonasse scioccante. Nell'interlocuzione con gli altri paesi europei, il punto che hanno tenuto fermo, che il bail-in doveva essere subito applicato dal 1 gennaio 2016 a tutta la raccolta diversa dai, sì, depositi assicurati. E dentro questa scelta non c'era tanto una considerazione di gestione delle crisi bancarie, ma si voleva creare un argine al doom loop, al rischio che una crisi bancaria poi dopo, generando una domanda di intervento statale, quindi spesa per bailout, e la fermezza dei nostri interlocutori a questa motivazione. E diciamo che in una trattativa in cui dall'altra parte, e l'ha ricordato Visco stamattina, si è riusciti ad ottenere, diciamo, l'intervento da parte della Banca Centrale Europea con il whatever it takes e quindi poi dopo anche il programma di acquisto su vasta scala dei titoli di Stato, e abbiamo dovuto pagare lo scotto di questa sorta di cordone sanitario che hanno voluto mettere nella BRRD. Condivido. Abbiamo anche ottenuto un rafforzamento dei poteri, non di risoluzione, ma quelli di recovery, cioè di interventi precauzionari preventivi che hanno consentito, consentito il fatto che oggi MPS ha evitato il trauma finale, per così, esatto, dire, e ce l'ho stato al 70%. Anche quello è un punto portato dall'Italia, quindi diciamo noi dall'esterno riusciamo solo a immaginare, ma io penso che ci sia stata una contrattazione molto tesa, molto dura, anche perché dall'altra parte c'era questa paura. Io credo che sia uno dei motivi della tensione vera, della tensione, non so se sia il termine appropriato, ma insomma della divergenza di vedute, perché quando la Banca d'Italia ci informò dopo la risoluzione delle quattro banche che era ascoltatore del 2015, fine 2015 novembre, di questa azione di seria obiezione che aveva esercitato, di cui non sapevamo prima, l'implicito l'implicito che la Banca d'Italia non può dire esplicitamente, ma che bisogna immaginare, è che i governi italiani non abbiano affiancato con altrettanta energia le obiezioni che la Banca d'Italia faceva, poiché naturalmente le faceva, ma poi dovevano essere sostenute, tra virgolette, politicamente dai governi. Non so come la pensi su questo, Ezequovesi. Su questo penso che a volte si sopravvaluta, diciamo, l'argine che avrebbe potuto rappresentare una norma di, diciamo, differimento dell'entrata in vigore del debito. Sono d'accordo. Anche per un motivo molto semplice: quando una banca va in crisi, quindi diventa insolvente, c'è un attivo che perde di valore, dall'altra parte ci sono dei debiti. Sì. E se i debiti non sono coperti, si ha un bel dire che non scatta automaticamente il bail-in, però, ma ci vuole qualcuno che arrivi il pantalone, esatto, che paga. Mentre... e quindi bisogna costituire un backstop, bisogna costituire un argine di sistema, quindi fondo interbancario o di finanza pubblica. Oh, siccome l'ha citato, ci troviamo qui, non stiamo andando molto in ordine, ma stiamo, per così dire, affrontando la questione degli anni 2013-2015. Oggi Visco è tornato a dire che uno dei punti su cui, a suo giudizio, a giudizio della Banca d'Italia, quindi, bisogna rimettere mano nella BRD è esattamente la possibilità di fare ricorso ai fondi di tutela, nel nostro caso il fondo di tutela dei depositi. Io sono sempre stato molto critico per usare il fondo di tutela dei depositi per interventi nella fase di recovery invece che di risoluzione, però la posizione della Banca d'Italia è: caro Giannino, non fare l'ortodosso, si usa quel che c'è, e intanto quello potevamo usarlo. Nella sua ricostruzione di oggi il governatore ha detto: la BCE prima ci ha detto no quando noi volevamo utilizzarlo, anche se poi per le quattro banche l'abbiamo utilizzato perché mancavano poche settimane ancora all'entrata in vigore formale della BRRD, che iniziava da gennaio 2016, mentre l'intervento sulle quattro banche Carife, Marche, Etruria eccetera è stato fatto a novembre del 2015. E poi però la BCE ci ha detto no, poi è tornata a dire sì. Insomma, è stato abbastanza polemico, sia pure con un tono corretto, il governatore della Banca d'Italia stamattina, e ha detto: io vorrei che su questo la BCE tornasse a dirci che quello strumento si può usare. A oggi è praticamente vuoto perché è stato utilizzato. Lei come la pensa su questo? Ma qui è complicato perché abbiamo due interlocutori, la direzione concorrenza, la commissione e la BCE. La cosa curiosa che è emersa nell'audizione di stamattina è stato che il tentativo che è stato poi bocciato di ricapitalizzare Percas con l'intervento, diciamo, del fondo di tutela ordinario, quello obbligatorio, sì, è stato seguito da un suggerimento. Dice: ma perché non fate come in Germania, esatto, gli schemi, un fondo volontario? E io qui ricordo, permetto di citare una cosa abbastanza gustosa, un convegno in cui un dirigente di una banca popolare italiana diceva: ecco come noi italiani siamo inventivi e riusciamo a risolvere le situazioni, la Digicom ci ha stoppato sull'uso del fondo interbancario e noi siamo riusciti a escogitare. E invece no, pare che questa dritta sia venuta dalla stessa direzione concorrente. Comunque, chiusa parentesi per questo aneddoto. Aneddotica, sì. Ecco, e il discorso del fondo volontario che stamattina è stato precisato è che si tratta di uno strumento tattico, cioè la risoluzione delle quattro banche, che è costata inizialmente 3,5 miliardi di intervento del sistema oltre al burden sharing, difficilmente stava nella larghezza di banda di un intervento volontario, perché sì, l'intervento volontario non può essere imperativo, esatto, e è un po' come un comitato dei creditori, se c'è uno che fa il dissenziente si tira fuori e non partecipa all'accordo, e a quel punto non c'è mezzo e diciamo ci si tira addosso una procedura di infrazione, perché appunto, sono molto volontario. Sono molto d'accordo con lei. Questo spiega anche perché è volato molto alto su Atlante, ma lì, appunto, siccome siamo nell'ambito di uno strumento volontario e di mercato, perché fa parte anche il fallimento di Atlante di questi anni che abbiamo alle spalle, presentato all'inizio in maniera roboante, con mia grande perplessità fin dall'inizio, oltretutto conoscendo chi ne era la guida, che aveva come ambizione quella, ricordate che gli ascoltatori, non solo di risolvere, di creare il mercato degli APL in Italia.

Visco allora ha risposto dicendo: sì, ho dei rimpianti, anzi ho due rimpianti, ha detto. Primo di questi è non aver spinto con più forza le banche a liberarsi delle sofferenze. Ecco, condivido molto, c'è stata una grande polemica per anni, io ero di quelli che fin dal 2012 diceva facciamo come la Spagna, ci conviene col debito pubblico che abbiamo, visto il sistema bancocentrico ci sarà un'esplosione degli NPL proprio in ragione del fatto che perdevamo più PIL degli altri, quindi io l'ho detto fine 2012 in campagna tra il 2013. E ricordate che all'epoca non si fece la cosa ed è rimasto aperto, perché secondo me questo tema Visco ci è tornato sopra, anche oggi ha detto che non era il caso, però comunque ha detto che il suo dei due rimpianti che ha messo il governatore della Banca d'Italia, il primo è quello di non aver spinto con più forze prima le banche a liberarsi delle sofferenze, il secondo è quello di essersi accorto dei problemi della Popolare di Vicenza solo nel 2014. Dopo l'ispezione e i primi sentori, per così dire, chiamiamoli sentori, del fenomeno delle azioni baciate, cioè se vuoi un credito io te lo do, ma in cambio ti becchi anche le azioni a prezzo stabilito dalla banca, della banca medesima. E a questo proposito, quando chi gli aveva fatto la domanda lo incalza, il governatore gli dice: ma come mai Banca d'Italia non si è opposta ai piani di Vicenza su Etruria e Veneto Banca, evitando così la perdita dei risparmiatori? La risposta, che a me lascia un po' perplesso a dire la verità, comunque testualmente è: forse potevamo essere più svegli. Nelle discussioni, nel direttorio, ha detto Visco, abbiamo sempre considerato Vicenza non una banca straordinaria, non la migliore delle popolari, ma in quell'ambito lì, sono sempre sue parole testuali, in grado di fare acquisizioni di banche più piccole. Poi a settembre 2014 la vigilanza si accorge delle baciate e a quel punto sanzioniamo l'amministratore delegato che ci dice che ci siamo sbagliati. Allora a quel punto Banca d'Italia decide, dice Visco, di far partire un'ispezione, che è la prima a quel punto anche sotto la responsabilità del BCE, ma sempre attraverso un team di Via Nazionale, e allora a quel punto gli ispettori, dice Visco, trovano una cosa che non cercano, cioè i finanziamenti imprenditoriali della zona per 500 milioni. Fino ad allora la nostra valutazione purtroppo non era corrispondente alla reale natura di quelle persone, non ce ne eravamo accorti. Ecco, questa è uno dei passaggi, io posso dire, che più mi hanno colpito, perché il governatore, al di là della difesa eccetera eccetera, qua dice delle cose in cui ammette: potevamo essere più svegli, non ce ne eravamo accorti, ce ne rendiamo conto solo nel 2015, consideravamo comunque la Vicenza una che potesse fare ancora aggregazioni. Beh, è una bella ammissione, non era mai venuta in questi termini, non vorrei sopravvalutarla. Lei che dice, Erzegovesi? Completamente d'accordo. Io penso che Vicenza fosse una struttura, diciamo, organizzativa, di governance, come infrastruttura di servizi informatici, che aveva una sua affidabilità, cioè come rete distributiva. È difficile pensare una sorta di visione di favore della Banca d'Italia nei confronti di una banca che aveva quella governance autoreferenziale con un dominus molto forte, che oggi, ha detto Visco, caratterizza la gran parte delle banche popolari quotate e non quotate in Italia, e penso che appunto la considerassero comunque una struttura che aveva una sua tenuta e che aveva bisogno di un rafforzamento patrimoniale. C'è questo spazio, questo gap, l'ha chiamato oggi governatore, tra il 2013 e il 2016, in cui la situazione è diventata, per così dire, magmatica, per cui ha detto: noi dobbiamo intervenire. Poi l'aumento di capitale che è stato fatto per poter colmare la carenza emersa nello stress test del 2013 è stato un triplo salto mortale, in cui lo strumento delle azioni baciate è stato utilizzato come una leva, diciamo, di grosso volume, e a differenza di quanto fatto negli anni prima a Vicenza e di quanto fatto a Montebelluna, a Veneto Banca, è stata proprio una vera e propria manovra di emergenza, fatta su grossi importi, con clienti, soprattutto imprese di un certo standing, di una certa dimensione. E io ho motivo di ritenere credendo alla buona fede della Banca d'Italia, che questa manovra di emergenza li abbia presi alla sprovvista, che è stata anche probabilmente responsabile dello scollinamento, del superamento del punto di non ritorno. Oh, a proposito del fatto, nella parte iniziale, quando dice sì, molti dà la risposta proprio dopo aver esordito ripetendo la tesi di Banca d'Italia, per cui i problemi delle banche, i sette guai maggiori, insomma, i sette istituti maggiori per cui si è dovuto intervenire, sono dovuti alla recessione, all'intensità della recessione, poi affronta proprio il problema della vigilanza e in due occasioni, sia nell'audizione, poi torna anche su questo rispondendo alle domande, ma già nell'audizione dice: poi voi non continuate a non capire, non dice così, che i nostri poteri sono meno penetranti di quelli della Consob, dice, quindi noi non è che potessimo fare chissà che cosa. Allora, questa cosa, dal punto di vista dell'ordinamento vigente pre-BRRD, è vera, cioè è incontestabile. Dall'altra parte però, per chiunque si occupi di banche italiane, sa che negli anni, attraverso quella che si soleva dire la moral suasion, cioè parlare all'orecchio dei banchieri e fargli fare quello che la Banca d'Italia riteneva più opportuno fare, beh, quella strada era un'autostrada seguita ordinariamente, al di là, diciamo così, dei poteri formali di commissariamento quindi amministrazione straordinaria, che Visco anche oggi ha rimpianto, ha detto è un errore della BRRD quello di non consentire quel passaggio, perché si arriva subito alla risoluzione a quel punto. Però come si tiene insieme il fatto che Visco dice i nostri poteri non erano così penetranti rispetto al fatto che per anni abbiamo descritto quello che avveniva nella semplificazione, cioè nelle aggregazioni di massa di istituti bancari operate e pilotate dalla Banca d'Italia? Sono sollecitato da questa domanda e lancio un tentativo di risposta. Chiaramente la Banca d'Italia è un veicolo, diciamo, di crescita culturale per quella parte del sistema bancario meno professionale, meno strutturata, dominata da personalità. Quindi le ispezioni della Banca d'Italia, la normativa stessa che suggerisce poi delle buone pratiche, rappresentano uno standard minimo a cui la banca ruspante, la banca che ancora deve fare un certo percorso, si può adeguare. È un approccio in cui la Banca d'Italia in passato, e su questo adesso da quel poco che conosco la vigilanza, lanciava dei messaggi energici, cioè, nel senso, questo sì. Cos'è che è saltato? Il fatto che il modello al quale conformarsi è stato completamente stravolto nel corso di questi anni. Cioè, il dire applica alla lettera le disposizioni, produci i piani strategici, produci i tuoi resoconti sui rischi, resoconto ICAP, non era assolutamente sufficiente per poter fare emergere le criticità, le patologie e intervenire, cioè era suggerire un approccio appunto di buone pratiche in una situazione che richiedeva invece un cambio di rotta, un intervento di carattere straordinario. E questo è un limite strutturale dell'azione di vigilanza, perché questa è una funzione tipicamente imprenditoriale. La vigilanza in situazioni di questo tipo chiaramente aspetta che il sistema faccia lui questo cambio di rotta. Poteva forse lanciare prima appunto il segnale che eravamo ad una svolta, ecco. Quindi bisognava assolutamente alzare il tiro, cambiare, ecco, decisamente. Il professor Giacovesi usa il linguaggio diplomatico di quello che io uso invece, il linguaggio più tagliente, quindi non troppo istituzionale, però concordo anche su questa sua opinione. Abbiamo le informazioni sulle strade e torniamo subito dopo. La versione di Oscar. Sbaglio, professore Giacovesi, oppure Visco, però nella parte finale io immaginavo, per esempio, poiché nella relazione finale che il presidente Casini ieri ha dichiarato sarà consegnata prima delle prossime elezioni, come ovvio, ma insomma si è impegnato a farla entro la fine del mese di gennaio, la relazione finale dei lavori della commissione. Io mi aspetterei che ci fossero anche delle proposte ordinamentali da sottoporre poi al prossimo Parlamento, poi si vedrà, ma insomma non è solo, diciamo, una ricostruzione quella che ci si attende dalla commissione. Mi è sembrato su questo, nella parte finale, quando della sua audizione, quando è passato a esaminare cosa resta della crisi, e dice la crisi c'è ancora, dobbiamo accelerare sugli NPL, dobbiamo considerare tutta una serie di cose e mettere in sicurezza altri istituti, dice però si può fare, questo è il giudizio, quindi il giudizio del governatore è non ci dovrebbero essere altre risoluzioni. Però mi è sembrato che il governatore fosse iperprudente sul consegnare alla commissione delle indicazioni di misure ordinamentali da rivedere, per esempio proprio sui rapporti con la Consob. Mi sbaglio secondo lei? Ma sul disegno dell'architettura di supervisione la prudenza è imposta dall'essere parte di una gerarchia europea, di una struttura in cui noi siamo una componente, che è in un ordinamento che chiaramente è regolato da normativa dell'Eurozona e dell'Unione Europea. Ho colto uno spunto in termini di possibile evoluzione della normativa sul tema della tutela del cliente, sulla tutela. Risco nella parte di domande ha ammesso che le cose non funzionano in maniera efficace, perché c'è la Banca d'Italia che ha competenze in materia di trasparenza, comunicazione per quello che riguarda i prodotti bancari, invece la Consob ce l'ha per i prodotti finanziari, e poi c'è tutto il tema dei prodotti assicurativi preferenziali che sono ancora su altre autorità. E su questo mi sembrava che prospettasse l'opportunità di una maggiore convergenza. Questo mi sembra interessante, perché effettivamente è su quel punto che abbiamo avuto gli episodi più problematici e le sofferenze maggiori. Sì, bisogna anche intrecciarla un po' con i nuovi obblighi che in teoria entrano in vigore tra pochissimi giorni della MiFID 2, peraltro, perché su questo le informazioni che noi abbiamo è che le banche, insomma, non stiano proprio accentuatamente dicendo ai loro clienti: guardate, entra in vigore un regime di obblighi nostri nei vostri confronti e vostri nei nostri confronti, completamente diversi, di profilazione, valutazione del rischio, eccetera eccetera. L'impressione un po' generale è che ci sia una sottovalutazione, per cui al posto di una risma alta così di documenti che si firmano, ce n'è una risma altrettanto, se non più alta, che si controfirmano, perché in realtà questo è proprio questa la faccenda, oltretutto, no? Perché cambia il quadro degli impegni attraverso i quali passa la selezione e la valutazione dei consigli che i risparmiatori si troveranno a dover affrontare per decidere come investire i propri risparmi. Certo, sì, ci saranno più paletti, ci sarà l'equivalente del bugiardino scritto dal produttore o dal primo distributore del prodotto, che dovrà segnalare chi lo può assumere, quali sono le controindicazioni. Ci saranno maggiori tutele per evitare che si faccia passare la voce per cui è il cliente che chiede il prodotto complesso sofisticato nel cosiddetto regime di appropriatezza. E poi lo strumento invece effettivamente coercitivo, che è la cosiddetta product intervention, cioè la possibilità, il potere per la Consob di vietare la vendita di un prodotto che giudichi appunto dannoso, lesivo. Il problema è che la MiFID è comunque un intervento focalizzato sugli strumenti finanziari, sui mercati finanziari. Quindi c'è un discorso trasversale, perché pensiamo a, diciamo, l'intervento dell'autorità garante della concorrenza sulla vendita dei diamanti, o sul fatto che il prodotto creditizio è venduto abbinato ad una polizza assicurativa, sì, e via discorrendo. Il tema della tutela del cliente delle banche, o comunque del cliente che utilizza servizi di investimento, è senz'altro un tema che richiede un approccio trasversale per essere efficace. Io a dire la verità, infatti, avrei sollecitato, ma questo non spetta anche alla politica farlo, non spetta alla Banca d'Italia, per rispetto delle competenze della Consob, visto che stiamo parlando della MiFID riguardo agli strumenti finanziari, quindi ricadiamo in competenze Consob. La mia opinione è che il politico avveduto dovrebbe dire: cara Consob, devi fare una specie di azione proattiva in tutti i primi mesi della MiFID su tutti gli intermediari finanziari, perché sia ben chiaro il quadro di illustrazione ai risparmiatori di come cambia la disciplina, cosa che secondo me non c'è. Considero anche un errore, secondo me, da parte del governo non aver immediatamente proceduto all'individuazione di un nuovo presidente della Consob, proprio alla luce del fatto che sta cambiando la disciplina. Intanto, grazie ancora una volta al professor Zigosi, che continueremo a disturbare. Continuate su Radio 24, vi lascio a Focus Economia, che vedrete parlerà anche di questo, oltre che di come stanno andando i mercati. E appuntamento all'8:15 domani mattina con me, Luca Telese, alle 24 mattina, e poi pomeriggio, come sempre, con la versione di Oscar.